conta anche l'esperienza, no? Così Silvio Berlusconi commenta i tempi record che l'hanno portato ad accettare l'incarico senza riserve e a presentare subito la lista dei ministri. Il futuro premier sale al Quirinale poco prima delle 19, subito dopo che il capo dello Stato Giorgio Napolitano ha terminato le consultazioni. Soddisfatto anche il Presidente della Repubblica. Si è proceduto speditamente, come più che in altri paesi, a partire dal momento del voto. In Spagna la prima riunione del Parlamento si è fatta oltre 20 giorni dopo. Risulteranno più brevi i tempi impiegati in Italia per la formazione di questo governo. Un'ora di colloquio e poi Berlusconi annuncia. Questi i nomi dei ministri: per gli affari esteri, onorevole dottor Franco Frattini; per l'interno, onorevole avvocato Roberto Maroni; alla giustizia, onorevole avvocato Angelino Alfano; alla difesa, onorevole avvocato Ignazio La Russa. Poche le sorprese: ad AN due ministeri con portafoglio e due senza, 4 alla Lega, Calderoli andrà alla semplificazione, 4 donne per il momento, anche se Michela Brambilla, precisa poi il Cavaliere, andrà alla sanità. Giuramento domani alle 17, Consiglio dei Ministri alle 18 per nominare i sottosegretari, martedì fiducia alla Camera, mercoledì al Senato, poi una battuta sul governo ombra. Cercheremo di fare luce in modo che l'ombra possa esserci davvero. Elisabetta Fiorito, GR24 e Sole 24 Ore, Roma.